Lettere a Radio 24 con la collaborazione di Luca Cremonese. Caro direttore, nei giorni scorsi, in uno dei purtroppo pochi momenti di ascolto della vostra radio, ho sentito del prossimo passaggio di consegne della direzione. Un ringraziamento in simili casi spesso è un atto banale e di convenzione. Nel caso specifico, almeno per me, non lo può essere. In un mondo dove le vere notizie sono quasi impossibili da trovare, dove i quotidiani sono tutti, chi più chi meno, indirizzati, e i telegiornali tristemente superficiali, trovare ancora una fonte di notizie, oggettiva, stimolante, intelligente, è cosa rara. Suo, fuori di dubbio, gran parte del merito, come sicuramente di tanti eccellenti professionisti che l'hanno affiancata. A me, ma certo non solo a me, mancheranno i suoi interventi, la sua pacatezza e la sua risolutezza nel sostenere indipendenza e equidistanza, la sua grande capacità di interessare e stimolare, da vecchio giornalista. Ancora un grazie sincero, Umberto Padova. Una settimana fa circa, un giornalista dichiarava che a Treviso ci sarebbe scappato il morto dai fascisti del Ku Klux Klan. Peccato che di morti ce ne siano scappati sei, e non a Treviso, ma a Caserta. Questo però non fa notizia, come i razzisti del Nord-Est. Stefano di Treviso. Finalmente gli immigrati africani del casertano hanno conquistato la parità con gli italiani. Vengono ammazzati esattamente come noi dalla camorra, senza alcuna discriminazione razziale. Aldo. Vorrei dire che già vivere a Castel Volturno e sopravvivere, tenendo nella giusta strada la propria famiglia, è da eroi. Luigi. Egregio direttore, negli anni 70 l'Alitalia era indicata quale acronimo di Always Late in Takeoff, Always Late in Arrival, cioè sempre in ritardo alla partenza, sempre in ritardo all'arrivo. Oggi è ancora così, in ritardo sempre su tutto. Anni fa, per non essersi fusa con KLM prima e con Lufthansa poi, per motivi politici, recentemente con Air France KLM per opposizione di 9 organizzazioni sindacali e per non aver chiuso con la CAI, dopo che erano stati parcheggiati gli ingenti debiti e gli esuberi sulle spalle dei contribuenti. In quest'ultimo caso è stato meglio così, perché a cosa servono 15 o 16 traghettatori zavorrati da Air One e Banca Intesa se dopo verrà data a chi è in grado di farla volare per sempre? E allora arrivi finalmente il liberatorio fallimento, in modo da favorire l'arrivo di un affidabile, redditizio vettore aereo nell'interesse di tutti noi cittadini. Si metterà così fine a 10 anni di accanimento terapeutico sulla compagnia. La bandiera ce la lasceranno perché siamo vanitosi, ma non pragmatici. Se tutto ciò non dovesse avvenire, faremo la fine della compagnia aerea del Portogallo TAP, cioè Take Another Plane. Prendi un altro aereo e non sarà certamente un dramma. Agostino. Volevo suggerire qualcosa che sfugge ai sindacati e che mi sembra di non avere mai sentito nei vari interventi sulla fine imminente di Alitalia. E cioè che Air France e Lufthansa stanno aspettando la fine naturale di Alitalia per poi aggiudicarsi quello che volevano. Il mercato, gli aerei a costo di saldo di fallimento e in più non sarebbero obbligati, come adesso, ad avere a che fare con una mentalità dei dipendenti a loro sconosciuta. Giuseppe Pesaro. E puntuale arrivò lo spauracchio della sicurezza dei voli all'Italia. Una bella minaccia da parte di uno dei sindacati dei piloti che tira in ballo lo stress che stanno subendo. C'era un odioso personaggio in Fuga da New York, un film apocalittico degli anni Ottanta, che ripeteva in modo ossessivo «Se mi toccate muore». È ora di toccarli, che questi piloti restino a terra. Saluti, Francesco. Leggendo le parole, i piloti sottolineano che tutta questa pressione sull'azienda mette a rischio la sicurezza dei voli. Mi chiedo se esista ancora un consiglio di amministrazione pubblico dignitoso, tale da licenziare in tronco chi ha fatto queste affermazioni. Per i dipendenti che poi non dovessero accettare altri lavori, c'è ancora uno Stato con una parvenza di dignità che verifica se debbono continuare a prendere integrazione al reddito, anche se rifiutano altri lavori e che, soprattutto, non vadano a fare lavoretti in nero, così da avere l'80% del loro attuale stipendio più 8 ore in nero. A me, piccolo imprenditore, è capitato che, volendo assumere un lavoratore nelle liste di mobilità, questo mi dicesse che venire a lavorare allo stato attuale non gli conveniva. Che ciofeca di stato. Ultima osservazione. Ora la CGIL si dice disposta a rivedere, ma prima no, poi sì, e poi? Hanno capito che non sono credibili. Remo. Mi chiamo Umberto, ho 51 anni, sono un assistente di volo di Alitalia, con 28 anni di volo. Ho una buona conoscenza della mia retribuzione. Sono in grado di arrivare al netto della busta di ogni navigante, passando tra le forche caudine rappresentate dalle regole previdenziali e fiscali che incombono sulle singole voci del mio cedolino competenze. In questi giorni si parla tanto della mia retribuzione, e spesso a vanvera, ma soprattutto si dice che non vogliamo affrontare sacrifici nell'ordine del 7%. Sfido i ragionieri del Ministero e della CAI, ma anche quelli dei giornali, a verificare con le loro calcolatrici e le loro tabelline di Pitagora quanto erroneamente si pubblica sui giornali o si dice per radio e TV. Se mi dimostrano che il calo è del 7%, come affermano, gli assistenti di volo sono pronti a lasciare sul tavolo di chiunque verrà almeno il 21%, cioè tre volte quanto viene richiesto. Umberto. Nell'ipotesi ormai imminente che Alitalia fallisse, vorrei fosse possibile, anziché dare uno scivolo di 7 anni di mobilità o cassa integrazione, dare ai dipendenti un pendio che li conduca alla raccolta di pomodori in Puglia o in qualche altra regione dove si coltiva l'ortaggio a 600-800 euro al mese, di modo che capiscano cos'è il lavoro vero. Paolo, Verona. Ricordo che nel 2002 le Ferrovie dello Stato diffusero i dati di bilancio 2001 in pompa magna, con tanto di certificatore multinazionale. Chiudeva in nero per la prima volta nella storia. In questi anni abbiamo scoperto improvvisamente che aziende portate in palmo di mano dall'informazione avevano invece qualche problemino. Se ci fermiamo all'Italia, cito a memoria Ferruzzi, Cirio, CIT, Parmalat, Banca Popolare di Lodi, Banca di Roma, Fiat, Magiste, eccetera. Sul fronte internazionale, senza andare troppo lontani, Enron, General Motors, Ford, Swissair, Merrill Lynch, AIG, Freddie Mac, Fannie Mae, Lehman Brothers, eccetera. L'informazione indipendente, da cosa era ed è distratta? Antonio, Roma. Egregio direttore, le scrivo in merito alla questione del ritorno del maestro unico nella scuola primaria, la nostra ex scuola elementare. Pensando a ciò, mi ritornano alla mente i bei tempi andati. Ricordi di quando eravamo bambini. Ricordi dei lontani, nel mio caso, anni 60. Ma proprio qui sta la questione. I tempi sono cambiati. Oppure no? Anch'io ho avuto il maestro unico e conservo, francamente, dei buonissimi ricordi. Ricordo però anche amici che del maestro unico avevano terrore, perché burbero e manesco. Ebbene sì, forse ci dimentichiamo che quelli erano tempi in cui la figura del maestro era considerata primaria, insieme al farmacista, al dottore e al parroco, e degna del massimo rispetto. Erano tempi in cui il maestro era padrone della classe, in senso positivo o negativo, e con questa impostazione poteva governare una classe anche composta da più di 30 alunni. Caro direttore, negli anni 60 non si usava più la bacchetta sulle mani, ma qualche ceffone volava ancora nella classe, e quando succedeva, guai ad andare a casa a dire che il maestro ti aveva dato una sberla, perché da tuo padre ne ricevevi la rimanenza. Ovviamente, e meno male, oggi non è e non deve essere più così. Sicuramente non ci sono più questi problemi, ma come spesso accade, si può passare da un estremo all'altro, e in questo caso temo proprio che sia andata così. Oggi bisogna fare attenzione persino alle parole, perché si può essere accusati di urtare la suscettibilità dei nostri bambini, mentre vivono una delle fasi più cruciali della loro vita. Oggi ci sono, io dico giustamente, i genitori direttamente coinvolti nella vita della scuola, anche se spesso essi prevaricano il loro ruolo, diventando essi stessi protagonisti. Non di rado succede infatti che i genitori critichino i maestri, arrivando fino al punto di scrivere sui diari dei figli «Io non sono d'accordo sulla sua valutazione, mio figlio meritava di più», oppure, in risposta a un'osservazione sul comportamento del figlio, dire «Ma come si permette? All'educazione di mio figlio ci penso io». E via di questo passo. Oggi nella scuola ci sono i diritti, anche se ho qualche dubbio che siano rimasti i doveri. E che dire della tanto nominata società multietnica? Negli anni 60, in Brianza, dove sono cresciuto io, le classi erano fondamentalmente composte dai Brambilla, dai Colombo, dai Dell'Orto, eccetera, e la lingua straniera era solo il dialetto. Oggi molte classi sono composte, in percentuali anche superiori al 10%, da bambini extracomunitari e questo comporta, da un punto di vista strettamente didattico, grosse difficoltà in quanto molto spesso questi bambini vengono inseriti direttamente nelle classi superiori alla prima, addirittura in terza o quarta, senza sapere una sola parola di italiano. I maestri si trovano, soli, ad affrontare queste difficoltà, dovendo garantire in contemporanea il regolare prosieguo della didattica della classe. A questo punto, però, mi sorge il dubbio che tutti gli argomenti che vengono portati avanti per giustificare questa impostazione coprano il vero motivo che spinge in questa direzione, e cioè le drastiche esigenze di bilancio. Ma allora lo si dica chiaramente, e tutto diventerebbe più logico e comprensibile. Anzi no, perché allora non si capisce tutto il gran parlare dei 20.000 esuberi di Alitalia, mentre si resta indifferenti di fronte agli 87.000 più 43.000 esuberi previsti dopo l'applicazione di questa nuova riforma. Con stima, Angelo. Caro direttore, che dice di Berlusconi che ha un gradimento al 60%? Ennia, L'Aquila. Cara Ennia, dico che Berlusconi, oltre il 60% di gradimento, se lo merita pienamente. Vede, la differenza dai primi 100 giorni di Prodi ai primi 100 giorni di Berlusconi è palpabile. Tralasciando l'indulto, autentica, vera e propria tragedia politica e d'immagine per il centro-sinistra, ci sta tutto il resto. Di Prodi si ricordano solo le finanziarie asfissianti e la rissosità della sua coalizione, che poi ha portato alla crisi e alle elezioni anticipate. Di Berlusconi, invece, sono passate molte cose, dall'immagine completamente positiva. Dall'immagine, poi la sostanza starà anche ai giornalisti verificarla. Faccio qualche esempio. Mano dura col tifo violento, mano dura col fenomeno della prostituzione, mano dura con l'immigrazione illegale. Poi, diciamo, le carceri scoppiano, qualcuno deve andare in cella sugli stadi o dentro carceri impossibili, ma questo è secondario, si vede dopo. Abolizione dell'ICI, rinegoziabilità dei mutui con esiti psicologici molto positivi, contabili meno perché poi alla fine il risultato è sempre quello. Salvataggio dell'Alitalia, cui evidentemente almeno mezzo paese guarda con simpatia, mentre l'altro mezzo paese è strastufo di pagare doppio i biglietti Roma-Milano, per esempio. Tutto questo pesa. Quello che mi dà da pensare è un certo conformismo e voglia di saltare sul carro del vincitore che affievolisce le capacità critiche. Ma sia ben chiaro, parlo di una critica non preconcetta, cioè di voler capire fino in fondo quello che succede. Qualcuno si pone le domande più ovvie. Per esempio, Berlusconi dice che l'ICI non rinascerà sotto nessuna forma, e fa bene, perché mantenere quanto si promette in campagna elettorale è un dovere, elementare dovrei dire. Ma il problema non è questo, il problema è che l'Italia ogni anno ha bisogno di X miliardi di euro che deve spendere per risanare il debito, per pagare gli interessi, per il funzionamento della macchina. L'ICI viene meno, bene, causa un buco di 2-3 miliardi di euro? Con che cosa si tapperà quel buco? Perché nonostante i tagli, i cui effetti sono tutti da vedere più tardi, quella cifra serve, subito. Nell'Alitalia i debiti si riaccolla allo Stato? Air France si riaccollava lei, cioè a costi zero per il contribuente? D'accordo, lo abbiamo già detto. I trasporti non sono bulloni, possono essere strategici. Vale fare per l'Alitalia tutto quello che non si farebbe per qualunque altra azienda? Secondo me su tutto questo vale la pena di esercitare il massimo di attenzione per poter poi valutare appieno l'operato del centrodestra alle prossime elezioni, così come si è valutato appieno, in senso estremamente negativo, l'operato del centrosinistra alle ultime elezioni. Ma finora, va detto, Berlusconi non ha sbagliato una mossa. Ma aggiungo un'altra cosa, se alla fine, fra 5 anni, registrerà una consistente riduzione del debito, liberando parte dei 70 miliardi di euro che ogni anno vanno via solo per gli interessi sul debito pubblico, e li potrà utilizzare per la ripartenza del paese, sa gli italiani tutti cosa dovranno fare? Un monumento a Berlusconi, e mi ci metto anch'io a costruirlo, perché è assolutamente meritato, con tanti saluti, al centro-sinistra che ancora discute, anzi litiga. Grazie comunque. Queste erano alcune lettere selezionate tra quelle che ci avete inviato all'indirizzo lettere@radio24.it. Continuate a scriverci.